24 mattino di Alessandro Milan. Alle 7:18 minuti, eccoci qui cari ascoltatori, siamo in diretta fino alle 9 anche oggi. Oggi abbiamo Filippo Aureggi alla console, si diceva così nelle radio, no? Del 1900. E chissà che anno. Filippo Aureggi in regia. E allora siamo anche in diretta su Facebook nella nostra pagina 24 mattino, andate a visitarla. Di cosa parliamo nel nostro sondaggio? Ci concentriamo su questo episodio di cronaca che ha visto tragicamente coinvolti due carabinieri selvaggiamente picchiati da quattro ragazzi, tre dei quali minorenni, reduci o nei pressi di un rave party, con le annesse polemiche legate a queste manifestazioni, rave party. E vi chiediamo controlli più repressivi, è quello che propone qualcuno per questo tipo di manifestazioni, che ne pensate? Votate su radio24.it. Parleremo anche del tema del giorno, per il secondo giorno consecutivo sui giornali, la tensione di governo, la tensione Lega Popolo della Libertà per quel che riguarda la vicenda Libia. E proprio dai giornali allora andiamo a cominciare. In primo piano. Effettivamente è il secondo giorno con tensioni che non si placano su questo tema. Guardate i titoli dei vari giornali. Corriere della Sera: la Lega sfida il Premier sulla Libia. Per Repubblica: Libia, il governo nel caos. Per La Stampa: Libia, la Lega vuole il voto. Per Libero: Sarkozy frega Berlusconi e si prende tutta la Libia, imbroglio francese. Il Messaggero: la Lega sfida Berlusconi. Volete vedere il titolo del giornale? Più esplicito di così, siccome si torna a parlare, lo vedremo, di complotti all'interno del governo, e quando si parla di complotti la persona a cui si guarda di più è Giulio Tremonti. Il giornale oggi titola così: Giulio perde la testa, Tremonti aizza la Lega. È un titolo che farà certamente discutere. Il Fatto Quotidiano: siamo in guerra ma lui se la spassa, lui è Berlusconi. Cosa faceva il Premier mentre Bossi contestava i bombardamenti sulla Libia? Era negli studi Rai a organizzare lo show di Sgarbi e a raccontare l'ultima su Sarkozy. Bombe sulla Libia, la sfida della Lega anche per il secolo XIX. Il Sole 24 Ore, l'apertura è sulla politica monetaria americana: la Fed chiude l'era degli aiuti, rivista al ribasso la crescita USA, tassi a zero ancora a lungo. Questi alcuni dei titoli di apertura, ne vedremo altri. Nel corso della rassegna stampa, quando ci concentriamo su questo, soprattutto vediamo anche il titolo della Padania: bombe uguale più clandestini. La Padania dunque che non arretra, ieri aveva dettato la linea con Umberto Bossi. Tra l'altro vi annuncio alle 8:20 avremo Matteo Salvini, eurodeputato della Lega, uno che la pancia anche degli ascoltatori, del popolo leghista, lo conosce bene, nella nostra intervista a spiegarci cosa sta succedendo. Le segnalazioni da cui voglio partire sono queste. La prima, sembra tutto pronto, la leggo dal Messaggero a pagina 7, per la beatificazione di Papa Wojtyła. L'evento è il 1 maggio, una Roma ovviamente che unisce questo evento che pare radunerà 1 milione di persone in arrivo da tutto il mondo. Ieri il sindaco Alemanno ha detto, anche con qualche polemica: cari cittadini di Roma, non vi sta bene questa concomitanza, cioè il 1 maggio, cioè il concerto del 1 maggio e la beatificazione di Papa Wojtyła, andate a farvi una gita fuori porta. Ieri è stato presentato il piano della sicurezza per le celebrazioni domenica a San Pietro. A pagina 7 del Messaggero: Wojtyła beato, Roma blindata, scatta l'allerta terrorismo. Per la verità pericoli ce ne sono come sempre. Blindare la città per scongiurarli non è la soluzione. Questo ha detto il capo della polizia Antonio Manganelli alla vigilia del fine settimana che culminerà con una oceanica beatificazione di Giovanni Paolo II a Piazza San Pietro. L'evento, ha ammesso il capo della polizia, implica un'oggettiva esposizione a rischi di terrorismo. Le misure di vigilanza saranno adeguate, Roma certo non sarà militarizzata. Certo, si attendono 1 milione di pellegrini. E tra l'altro sono attesi anche in Vaticano 40 capi di Stato, sempre si legge a pagina 7. Non esistono biglietti per questa beatificazione, il cerimoniale ha dovuto seguire una specie dunque di manuale Cencelli. Tanti posti agli italiani, tanti ai polacchi, in virtù ovviamente anche della nazionalità di Karol Wojtyła. da Varsavia il governo ha predisposto un volo speciale, arrivano il presidente, alcuni ex presidenti, il presidente di Camera, Senato, ma ci sono almeno 40 capi di Stato, un po' da tutto il mondo, e quindi insomma tutto è pronto per questo evento anche dal punto di vista dell'ordine pubblico. La seconda segnalazione ve la trovate su tutti i giornali. Barack Obama, l'avevamo detto, ne avevamo parlato qualche giorno fa in rassegna stampa, era uscito anche un libro che rilanciava le accuse nei confronti del presidente americano. L'accusa qual è? Era quella di non essere nato effettivamente negli Stati Uniti, nelle Hawaii, ma di essere nato in Kenya o comunque altrove. E non è una questione di secondo piano, perché come avevamo detto la scorsa volta, se non sei nato negli Stati Uniti non sei eleggibile alla presidenza degli stessi Stati Uniti. E allora era nato anche un movimento, i cosiddetti birthers, che dicevano e sostenevano: ma siete sicuri che Obama sia nato negli Stati Uniti? Perché ci sembra che il suo certificato di nascita sia taroccato con tanto di libri, movimenti. Donald Trump era in prima fila a dire: io non ci credo che sia nato negli Stati Uniti. Cosa ha fatto Barack Obama con tanto di breaking news da parte di tutta la CNN, la Fox, di tutte le televisioni americane? Ha fatto una conferenza stampa nella quale ha detto: eccolo qui, vi produco per intero il certificato di nascita che certifica in maniera definitiva che sono nato negli Stati Uniti, sono nato alle Hawaii, e poi ha commentato: ora basta stupidaggini, di queste fesserie non occupiamocene, sono concentrato a occuparmi di altre cose. Il certificato di Obama, basta stupidaggini, sono nato americano, questo la leggo dal Corriere della Sera. Certo, Donald Trump, aspirante candidato repubblicano nel 2012, perché chiaramente questo si intreccia anche con il lancio proprio della prossima campagna presidenziale, Donald Trump ha detto: sono comunque orgoglioso per essere riuscito a ottenere ciò che altri non sono riusciti a ottenere in tanti anni, cioè evidentemente a stanare il presidente americano, che si è sentito in obbligo, in dovere di mostrare a tutti il certificato americano. Sta di fatto che Obama l'ha fatto. Le polemiche sulle vere origini del presidente sono placate, chi lo sa, forse, ma sicuramente ci sarà qualche complottaro che dirà che anche questo certificato che ora verrà vivisezionato sarà stato taroccato in qualche modo, sarà stato prodotto in qualche modo artificiale, perché quando non ci si vuole arrendere alle verità, insomma, c'è sempre l'idea del complotto dietro. In ogni caso, ci fermiamo per la pubblicità del meteo e poi ripartiamo dal tema certamente centrale sviluppato dai giornali, vale a dire i rapporti di governo tra il premier Berlusconi e Umberto Bossi sul caso Libia. Eccoci qua, le 7:28 minuti, e succedono anche queste cose. Si è impallato che cosa, Filippo Reggi? Tutto il sistema elettronico, ma la voce c'è, il microfono c'è, noi siamo qui. E allora, da cosa vogliamo ripartire? Beh, come detto, dai temi del giorno per quel che riguarda la Libia, ma lo facciamo dopo il meteo. Eccoci. In primo piano. Eccoci qui allora, le 7:32 minuti, con la Padania per il secondo giorno consecutivo. Bisogna dare uno sguardo al titolo della Padania, che ieri aveva dettato la linea molto infervorata di Umberto Bossi contro Berlusconi sul tema Libia: bombe uguale più clandestini. Questo è il titolo della Padania. Il Carroccio non arretra e resta contrario all'intervento militare italiano, come anticipato da Bossi sulla Padania. Il ministro dell'Interno da Berlusconi, scelta sbagliata. Il ministro dell'Interno Maroni. E Maroni fa proprio un'intervista a Libero. La rassegna stampa, mi concentrerò molto su questo tema perché è davvero il tema politico affrontato da tutti i giornali di con varie sfaccettature, che parlano tutti i quotidiani di una situazione davvero di grave tensione all'interno del governo su questo tema. L'intervista a Maroni su Libero a pagina 4 la fa Matteo Pandini. Sulla Libia Silvio si illude, non lo seguiremo mai. Berlusconi non ha consultato la Lega. Noi siamo contro la guerra, no alla guerra, no al bombardamento. È una decisione sbagliata che avrà come conseguenza certa un'ondata di immigrati mandati da Gheddafi o che scappano dalla guerra. Così dice Maroni, che poi ribadisce: l'ho saputo la notizia dalle agenzie, è veramente incomprensibile, non riusciamo a capire il perché di una decisione così. Berlusconi ha deciso senza consultare nessuno, inopinatamente. Le bombe, risponde alla russa qui Maroni, per definizione non sono intelligenti. Una bomba non è intelligente, devasta, uccide, distrugge. E Gheddafi ha un arsenale in grado di resistere a 5 guerre mondiali, una disponibilità di risorse straordinarie. Poi Maroni dice: non mi risulta alcun incontro con Umberto Bossi, sono stato con tutto il pomeriggio con lui, Berlusconi e Bossi non, al momento non si vedranno. E la linea della Lega, perché qualcuno dice, ieri a un certo punto il capogruppo della Lega, Reguzzoni, ha detto no ma noi siamo nel governo, ha un po' smussato i toni, e dopodiché Bossi pare si sia molto arrabbiato per queste dichiarazioni e ha detto no, bisogna mantenere il punto. E infatti in questa intervista Maroni ribadisce: la linea di Bossi è quella della Padania, siamo contro la guerra. E alla domanda il governo è in pericolo, risponde Maroni: il governo è in pericolo se si limita a fare cose contrarie al sentire comune e non fa quello che deve fare. Questo è l'unico pericolo che corre il governo. Siete pronti ad andare contro il PDL? Spero di no, che non accada. E ancora, la linea è quella di Bossi, il resto sono variazioni sul tema che non influiscono sulla linea. Insomma, Libero stesso, con un editoriale di Vittorio Feltri, definisce lo scontro frontale. Il governo, scrive Vittorio Feltri, rischia davvero. E anche Stefano Folli, nel suo consueto commento in prima pagina del Sole 24 Ore, dal titolo Un suicidio in mondovisione, scrive: una crisi di governo sulla politica estera assomiglia a un suicidio internazionale, ancora peggio una crisi che dovesse esplodere per smentire gli accordi NATO sullo sfondo di una mozione ONU che l'Italia ha accettato. E infine, ipotesi in assoluto pessima, una crisi che prendesse forma all'indomani delle dichiarazioni ufficiali del Presidente del Consiglio rese ai maggiori alleati, in cui si annunciano i bombardamenti mirati in Libia della nostra aviazione. Non siamo a quel punto, con ogni probabilità non ci arriveremo, ma ieri è stato fatto un discreto passo avanti verso questo scenario disastroso, con effetti su immagine dell'Italia, del mondo, che è facile immaginare. Insomma, rapporti definiti anche da Stefano Folli al lumicino tra Berlusconi e Bossi. Sta di fatto che Berlusconi non arretra. Anche a pagina 3 del Corriere, indietro non si torna, e pare che abbia detto: la politica estera non si fa certo in via Bellerio, vale a dire la sede della Lega a Milano. E Bossi pare, dalla Stampa, ormai offeso, non risponde neanche più al telefono a Berlusconi. Anzi, Bossi addirittura, secondo Libero, avrebbe detto così di Berlusconi. Questo lo leggo su Libero, proprio a corollario dell'intervista a Roberto Maroni. Ormai ne ho pieni i coglioni. Questo sarebbe la dichiarazione di Umberto Bossi, riferita da alcuni suoi collaboratori, riferita al premier Berlusconi. Un Berlusconi che appunto ha provato a chiamare Bossi, ieri si è visto in aereo ha fatto un viaggio in aereo con il ministro Calderoli, ma pare, dicono i giornali, che non sia stato un viaggio riappacificatore. Il Corriere della Sera si concentra a pagina 2 e 3 a cercare di capire, tra gli umori all'interno della Lega, il perché, cioè il vero motivo su cui si interroga all'interno della Lega, è perché c'è stato un rovello, cosa è cambiato d'improvviso e non annunciato, come ha detto Maroni anche nell'intervista a Libero. E allora, scrive il Corriere della Sera con Marco Cremonesi, Si avanzano le ipotesi anche le più bizzarre. Addirittura una di queste è che il memorandum d'intesa firmato Sarkozy-Berlusconi sarebbe stato, contrariamente alla prassi, scritto in francese, che nessuno l'abbia neppure tradotto, tanto i contenuti veri sono altrove. C'è anche una tesi gravissima che viene fatta circolare, che vale a dire che ci siano degli interessi privati di Berlusconi in Francia, tanto che qualche dirigente leghista, virgolettato, dice: quando vedremo spuntare una qualche antenna del biscione in Francia, forse capiremo. Cioè, quindi un'accusa molto grave, quella di un presunto interesse personale da parte delle aziende del Presidente del Consiglio in Francia alla luce di questo accordo. Sta di fatto che Lo stesso libro è molto esplicito. Nel titolo di prima pagina, la Francia si prende, frega Berlusconi, Sarkozy frega Berlusconi, si prende tutta la Libia, racconta il libro con Franco Bechis, il suo vice direttore, di una missione segreta a Bengasi 15 giorni fa, quando un aereo spacciato per aereo di volo umanitario del governo francese, ma che a bordo invece teneva i massimi dirigenti dei colossi transalpini e EAZ della difesa, Vinci delle costruzioni e Total del petrolio, sono andati a Bengasi per firmare un memorandum d'intesa con il Consiglio Nazionale Transitorio, quello dei ribelli, insomma, della Libia, per cercare di accaparrarsi che cosa? Quello che Libero dice, tutta la Libia, cioè tutte le commesse poi una volta che sarà finita la guerra dal punto di vista delle aziende. L'altro grande temone che rispunta dai giornali e rispunta con forza è quello del presunto complotto. Complotto che il Presidente del Consiglio teme, e quando si parla di complotto da mesi rispunta, anche se lui infastidito, arrabbiato, respinge sempre le accuse al mittente, rispunta il nome di Giulio Tremonti, ministro dell'economia, considerato il più vicino alle posizioni della Lega. Ebbene, uno magari può pensare che questa del complotto sia la solita solfa, perché, non so, leggiamo sul Corriere a pagina 6, Berlusconi, il Senatur e il ruolo di Tremonti tra mediazioni e sospetti. Leggiamo su Repubblica i sospetti del Cavaliere su Tremonti, è lui che sta aizzando Bossi, ma sono tutti retroscena. Oppure il sottosegretario Miccichè intervistato dal Messaggero, dietro Umberto c'è Tremonti, è Tremonti che si mette dietro Bossi, i due viaggiano di conserva, ma magari si possa pensare che Miccichè, esponente anche di una politica del Sud, ce l'abbia con Tremonti perché dice non aiuta abbastanza il Sud. Però poi uno va sulla prima pagina del giornale e quindi, insomma, nel giornale berlusconiano, e legge questo titolo. In prima pagina, Giulio perde la testa, Tremonti aizza la Lega. Altro che Libia e clandestini, dietro allo strappo del carroccio c'è la manina del ministro che vuole vendicarsi della nomina di Draghi alla BCE e dell'OPA francese su Parmalat. Insomma, quindi l'attacco è frontale da parte del giornale con il suo direttore Alessandro Sallusti nel suo editoriale. La verità è questa: a Tremonti c'è l'ira per due fatti, la nomina appunto a Mario Draghi, il via libera alla scalata francese su Parmalat da parte del Premier. E sentite cosa dice Sallusti del ministro Tremonti: ha perso la testa, cerca l'affondo col tifo delle opposizioni. Un ministro dell'economia dovrebbe lavorare per la stabilità politica, che è presupposto di quella economica. Se fa l'inverso significa che ha mire diverse, magari inconfessabili. Per esempio tirare per la giacchetta Bossi, alleato decisivo del Premier, per portarlo verso altri lidi, il quale Bossi sta prendendo tempo. E tra l'altro, si conclude l'editoriale, nella Lega c'è chi getta acqua sul fuoco, sfasciare tutto per cosa? Per vendicare Tremonti della nomina di Draghi? È un po' poco, è difficile farlo digerire al popolo leghista, anche in tempi di campagna elettorale. Ma l'attacco è durissimo, nel giornale Tremonti aizza la Lega contro Berlusconi. E anche per l'Unità, pagina 2, nella consueta rubrica Il Congiurato, il tema affrontato è questo: Tremonti e la Lega si preparano a mollare il Cavaliere. Cavaliere che intanto, secondo il Fatto Quotidiano, che mette questa prima pagina, questa prima notizia in prima pagina di apertura, mentre si discuteva il giorno del vertice della Italia-Francia, siamo in guerra, ma lui se la spassa, dov'era Berlusconi? Dov'era? Al termine della lunga giornata di grande tensione, martedì 26 aprile, ha finito la serata, racconta Carlo Tecce a pagina 3 del Fatto Quotidiano, con Vittorio Sgarbi accompagnandolo alla RAI per cercare di capire tutto riguardo al nuovo show che Vittorio Sgarbi dovrebbe far partire a maggio sulla RAI, e ha raccontato ovviamente qualche barzelletta. Di fronte a ragazzi increduli, scrive il Fatto, a pagina 3 racconta le solite barzellette, sale sui ponteggi, quando in alto a un metro e mezzo dal suolo, pervaso dallo spirito di una rock star, chiama i suoi, si lancia come Jimi Hendrix. Cioè, si lancia come Jimi Hendrix, no, non voglio pensare all'immagine. scarica subito il complesso di Sarko. Ed eccola la barzelletta, la battuta su Sarkozy. Gli ho detto che mi sembra un maniaco, va sempre con la stessa donna. E poi rinforza l'autostima. Dio mi rimprovera che con me fa solo il vicepresidente. Questa è un'altra di Berlusconi, che è una battuta che ha detto. Insomma, sexy gag, tuffi da rockstar, cioè tuffi da rockstar, pare si sia lanciato come Jimi Hendrix in un concerto. Berlusconi questo, no? E il Fatto Quotidiano titola così: un buffone sul set di Sgarbi. Vabbè, segnalo come politica un'intervista a Massimo D'Alema. Su Repubblica, pagina 9, D'Alema sfida Berlusconi, non ha più una maggioranza, se perde il 16 maggio va da casa. Secondo D'Alema lo snodo importante è quello delle amministrative. A proposito di amministrative, c'è un attacco del quotidiano Libero al candidato di Milano del centro-sinistra Giuliano Pisapia. Quando Pisapia fu arrestato con l'accusa di banda armata, questo lo trovate a pagina 12, precedenti imbarazzanti. Negli anni 70 l'attuale sfidante della Moratti intratteneva relazioni pericolose coi terroristi di prima linea che ospitò a casa sua, finì anche in galera per 40 giorni, poi però fu assolto. E prosciolto per il reato di banda armata, rinviato a giudizio per il progettato sequestro, dal quale successivamente sarà assolto. Quindi Libero dice assolto da tutto, però intanto quando Pisapia fu arrestato con l'accusa di banda armata. Per concludere l'ampia pagina politica, almeno su questi temi, poi c'è anche il tema biotestamento. Beh, vi segnalo anche un'intervista al Manifesto di Umberto Eco, un manifesto che parla dei suoi 40 anni. Sentite come Umberto Eco, intervistato da Valentino Parlato, parla dei berlusconiani. Discutevo ieri della bizzarra proposta del colpo di Stato di Azor Rosa. Il problema, dice Umberto Eco, non è cacciare Berlusconi con un colpo di Stato contro il 75% degli italiani, al quale in fondo le cose vanno bene così. 75% chiede Parlato. Non dico quelli che votano direttamente PDL, ma quella maggioranza naturalmente berlusconiana che non vuole pagare le tasse, ha voglia di andare a 150 km all'ora sulle autostrade, vuole evitare carabinieri e giudici, trova giustissimo che uno se può se la spassi con Rubi, trova naturale che un deputato vada dove meglio gli conviene. Questa è la moralità dominante. Berlusconi è un abile e geniale piazzista che ha capito la sostanza e gli umori dell'attuale mercato politico. Questa è la lettura di Berlusconi e dei berlusconiani per Umberto Eco sul Manifesto. Il traffico. In primo piano. Qualcuno via SMS ci fa sapere che quello dei tuffi dal palco era Jim Morrison. Effettivamente Jimi Hendrix non me lo ricordo che si tuffasse dal palco, ma forse neanche Jim Morrison, forse sì, ma anche Jimi Hendrix sarà tuffato. Però pare, ecco questa è la notizia, sparata dal Fatto a pagina 3, che Berlusconi, che era negli studi della RAI per vedere come andava la programmazione, il programma di Vittorio Sgarbi, abbia fatto da un metro e mezzo d'altezza un tuffo alla rockstar di vecchi tempi dal palco per farsi prendere dai suoi al volo, oltre a qualche battuta su Sarkozy e dintorni. L'altro tema che trovate sviluppato sui giornali è politico, non dovrebbe essere politico o non solo, è un tema cosiddetto etico, ma diventa politico nel momento in cui il Parlamento dovrebbe legiferare, almeno così si dice da un paio d'anni. Su questo tema è quello del biotestamento, perché ieri il premier Berlusconi ha mandato una lettera ai parlamentari sul tema del fine vita, una questione definita nella lettera sensibile, legata alla sfera più intima e privata. Non si dovrebbe legiferare, ha detto Berlusconi, ha scritto in questa lettera, anch'io la penserei così se non ci fossero tribunali che, adducendo presunti vuoti normativi, pretendono in realtà di scavalcare il Parlamento e usurparne le funzioni. Insomma, Berlusconi si è detto personalmente contro una legge, ma visto che ci sono tribunali, il riferimento viene implicito al caso Eluana Englaro, che di fronte a questo presunto vuoto normativo prendono decisioni, ecco allora che ha invitato Berlusconi il Parlamento di fatto a legiferare su questo, e il dibattito viene rilanciato Repubblica intervista per esempio Giuseppe Fioroni, che è un cattolico del PD, che anche per il riformista ha un almeno una ventina di parlamentari che su questo tema sono pronti a seguirlo, lui che appunto è nel Partito Democratico ma è cattolico e dunque incarna un disagio se non altro per quel che riguarda la linea del partito su questo tema. Voterò in piena libertà, ma la vita non è un bene cui si può rinunciare, questa è l'intervista, il titolo dell'intervista a Fioroni. Mentre Rocco Buttiglione dell'UDC, intervistato dal Messaggero su questo tema, è molto duro nei confronti del Premier, dice: lui non ha i requisiti morali per fare degli appelli sul biotestamento, politicamente è una legge importante, ma sul terreno dei valori, un terreno scivoloso, Berlusconi non è credibile. Prova ad appropriarsi in modo sfacciato di questa legge per via delle difficoltà nelle quali si è venuto a trovare nei confronti della Chiesa e dell'elettorato cattolico. La Chiesa chiude sempre gli occhi sulle vicende private dei politici, non è moralista, però deve aprire gli occhi davanti a un pubblico scandalo, e l'ha fatto davanti allo scandalo rappresentato dallo stile di vita del Cavaliere. Insomma, molto, molto duro Buttiglione. Ciò che Berlusconi non capisce è che è cominciata nel Popolo Cristiano la ricerca di qualcuno che non dia scandalo nella condotta privata e difenda i valori della famiglia e della vita. Quindi su questo tema il dibattito, il tema del biotestamento, si riapre sui giornali. Come detto, trovate l'apertura del Sole 24 Ore come tema economico, è dedicata alla politica monetaria americana. La Fed chiude l'era degli aiuti, lo stop da giugno al programma di acquisto di bond, nessun rialzo dei tassi in arrivo e una crescita americana che nel primo trimestre sarà debole, quindi segnali non incoraggianti che arrivano dal di là dell'Atlantico, probabilmente di poco sotto al 2%, sui mercati il dollaro è sceso ai minimi degli ultimi 17 mesi sull'euro. Questo poi è analizzato molto bene a pagina 3, la Fed tassi bassi ancora a lungo, scrive Daniela Roveda da New York. Insomma, le stime di crescita del PIL a causa di una frenata del primo trimestre sono state riviste al ribasso e questa non è certo una buona notizia per quel che riguarda la ripresa economica americana. Ma insomma, tutti sono pronti allora per questo matrimonio del secolo, il matrimonio del secolo. Che io ribadisco, ma non contando nulla, chi se ne frega, lo perderò sicuramente, magari darò un'occhiata alla TV, anch'io non è che faccio lo snob, mi capiterà sicuramente domani alle 11 qui in redazione con le TV accese di dare un'occhiata a quell'evento mondiale che 2 miliardi di spettatori, ci informa il Sole a pagina 13, guarderanno, 2 miliardi, e beh, allora è davvero un evento del secolo. La stima precedente era di 750 milioni di persone per quel che riguarda le nozze di Carlo e di Diana nell'81. Vabbè, ma insomma, allora non erano neanche così diffuse l'idea di una diretta. Sono tantissimi invitati. La stima dell'aumento del giro di affari dei commercianti inglesi, 527 milioni di sterline. Ah, però, beh, i commercianti inglesi, il commercio inglese sarà contento di questo. Gli invitati alla cerimonia all'abbazia di Westminster saranno 1900 invitati, ma la cena privata sarà solo per 300 ospiti. Tutti questi numeri li leggo a pagina 13 del Sole 24 Ore. Nozze da business, ci sono anche una pioggia di ordini per la Royal Crown Derby, che produce da secoli la porcellana reale. Tra l'altro c'è stato questo giallo perché Kate Middleton, Kate con la K, però in realtà si chiama Catherine con la C. Insomma, William con la W verrà stampato su tutte le porcellane VC, e si è creato un imbarazzo non indifferente, perché allora racconta Leonardo Maisano che sono state scritte, non verranno stampate le lettere VC, insomma, che richiamano non certo William e Catherine, ma la W è sullo sfondo e la C si intreccia come foglie che si allacciano alle linee rigide della W. Insomma, tutto per evitare di pensare al cesso. Questo, parliamoci chiaro. E poi su tutti i giornali c'è il fatto che, secondo la Bild tedesca, sia stato firmato in un importante studio legale un contratto prenuziale. E il contratto prenuziale, il patto prenuziale prevede questo. Lo leggo da Maria Laura Rodotà sul Corriere della Sera, pagina 15. In caso di divorzio, Kate Middleton perderebbe l'affidamento di eventuali figli, il titolo di altezza reale, la possibilità di vivere nelle dimore reali, non otterrebbe un solo penny del patrimonio di William, attualmente di 13 milioni di sterline, ma nel caso di decesso della nonna salirebbero a 325 milioni di sterline. Non potrebbe rivelare nulla della sua vita coniugale e della famiglia reale, pena una multa a 7 cifre. Praticamente, scrive la Rodotà, un contratto capestro, un contratto mannaia, visti i precedenti. Vuoi fare la principessa? Ecco qua. Allora, noi ci fermiamo. Ricordo alle 8:20 l'intervista con Matteo Salvini della Lega, e nel nostro sondaggio parleremo invece di rave party legati al terribile fatto di cronaca, l'aggressione a due carabinieri che sono stati massacrati da un gruppo di 4 ragazzi, 3 dei quali minorenni. Controlli più repressivi per i rave party, questo vi chiediamo, è giusto? Intanto votate su radio24.it, il giornale radio. 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8:21 minuti. Per la nostra intervista voglio salutare l'eurodeputato della Lega Matteo Salvini. Salvini, ben ritrovato. Buongiorno a chi ci ascolta. Senta, fino a dove è pronta a spingersi la Lega per tenere il punto su questa questione Libia? Ma guardi, io torno a 12 anni fa per smentire qualcuno che dice che la presa di posizione della Lega sulle bombe, sui missili in Libia sia una trovata elettorale. 12 anni fa dicemmo no alle bombe su Belgrado, perché secondo noi non servivano, e la pagammo perdendo decine di migliaia di voti perché pareva che volessimo difendere un dittatore. Sono passati 12 anni e in Kosovo a essere perseguitati oggi sono i cristiani, che sono diventati minoranza in quella che una volta era casa loro. E quindi l'abbiamo pagata elettoralmente sulla nostra pelle. Che le bombe non servissero a Belgrado e non servono oggi su Tripoli ci pare chiaro ed evidente. Se su questo il governo terrà o salterà, non ho la sfera di cristallo e non sono in grado di dirlo, posso solo dire che noi idea non la cambiamo, spero che il governo non salti. Però significherebbe aver lavorato 3 anni sul federalismo invano e dover ricominciare da capo. Certo è che leggere sul giornale dal Presidente del Consiglio, senza esserne avvisati la mattina, alzandosi per andare a lavorare, che i nostri aerei sganciano missili, non penso sia una sorpresa che può far piacere. Vi siete molto adombrati, ma quindi l'ipotesi, voglio dire, dice non ha la sfera di cristallo, però anche il ministro Maroni oggi in un'intervista a Libero dice il governo rimane se fa le cose che deve fare, cioè è messa in un'ipotesi, anche tra le varie ipotesi, quella che il governo non regga questa prova di forza. Ah beh, sicuramente non c'è nulla di definitivo. La Lega uscì da un governo nel 94 con 5 ministri e 150 parlamentari. Detto questo, il momento economico del paese è delicato, c'è un accenno di ripresa e quindi far saltare tutto merita non uno ma 18 momenti di riflessione. Detto questo, che le bombe su Tripoli non siano intelligenti e portino all'Italia e agli italiani solo e solamente svantaggi, lo sentivo anche dal sondaggio di Radio 24 di ieri, perché il 70% dei vostri ascoltatori mi sembra dicesse di no. Il giornale oggi titola Tremonti aizza la Lega. Altri quotidiani insomma parlano di questo complotto presunto, cioè retroscena. Il giornale titola così: Tremonti aizza la Lega. Pare che ci sia Tremonti, secondo il giornale, non un quotidiano a caso, dietro il titolo di ieri sulla Padania. Il giornale fa dei titoli che ultimamente sono poco comprensibili, penso anche ai suoi lettori, qua c'è poco da io, leggevo qualcuno che addirittura avanzava l'ipotesi qualche settimana fa che fosse Maroni a stimolare. C'è il cellulare, Salvini, il suo cellulare fa un po' le bizze, dove si trova? Chi fosse? No, adesso la sentiamo. Che fosse chi? Maroni? Fosse Maroni a aiutare i tunisini a partire, così poi li avrebbe rimandati indietro, avrebbe fatto bella figura. Cioè, le interpretazioni fantasiose e bizzarre sono le più varie ed eventuali Quando ci sono di mezzo bombe, missili e siluri, non c'è niente da aizzare. Se c'è una cosa che mi fa specie è il sorriso con cui una certa sinistra accoglie appunto i bombardamenti, come se si stesse parlando di fare due passi in campagna. Ma invece io vorrei capire una cosa, perché oggi il Corriere se lo chiede, pare che gli esponenti, insomma, del Carroccio siano soprattutto stupiti, stupefatti di come, del perché sia maturato questo, secondo voi, cambiamento di posizione. Vi siete dati una risposta, cioè avendola preso dalle agenzie, come dicono un po' tutti, Maroni, Boss, eccetera. Cosa è successo in questi due giorni? Che Berlusconi forse pensa di ottenere credibilità internazionale dicendo solo sì a Obama, a Sarkozy, all'ONU, alla NATO. Ogni tanto su questioni soprattutto di principio importanti per il nostro paese, perché dalle eventuali bombe in Libia la gente scappa, evidentemente se mi cadono delle bombe sotto casa io scappo, e la gente che scappa, se non muore, non arriva in Finlandia, in Gran Bretagna, eccolo, in Danimarca, il titolo, arriva a casa nostra. Il titolo della Padania, il titolo della Padania di oggi, e bombe uguali più clandestini. Ma poi quanto costa questo intervento e come si pagheranno le centinaia di milioni di euro di questo intervento? Ma poi soprattutto serve al popolo libico? Servono le bombe? A me avevano raccontato che serviva a difendere la popolazione con la no-fly zone, eccetera, eccetera. Se occorre bombardare Tripoli, lo si dica onestamente, e ogni tanto qualche no. Berlusconi, anche e soprattutto ai francesi che arrivano qui, ci comprano il latte, ci comprano l'energia, ogni tanto dire qualche no non fa male. Se altra ipotesi che è oggi sui giornali da un po' di tempo, se Berlusconi, se il centrodestra perdesse Milano alle amministrative, crolla tutto e la Lega fa crollare tutto. Non le voglio far commentare un'eventuale sconfitta, immagino voi penserete di vincere Milano, però c'è, in ipotesi c'è anche questo, in politica si può anche perdere. Se perde Milano, le elezioni sono belle perché i sondaggi non contano nulla e poi sono i milanesi, i bolognesi e i torinesi che votano. Io penso che a Milano si vincerà. Però mettiamo il caso dal vostro punto di vista negativo. La prendo come ipotesi di fantasia, perché matematicamente l'Inter può ancora vincere lo scudetto, ma la vedo difficilotta che l'Inter vince lo scudetto. Quindi quello speriamo è chiaro che una sconfitta a Milano, una sconfitta del centrodestra a Milano, così come una sconfitta del centrosinistra a Bologna o a Torino, sarebbe eclatante, quindi cambierebbe tutti gli equilibri. Io dico che nonostante gli errori commessi dalla Moratti nel primo mandato, Milano continuerà a essere governata al centrodestra. L'ultima battuta è su Bersani, che ha fatto mettere il PD, insomma, ha fatto mettere dei manifesti con Alberto da Giussano, lo spadone di Alberto da Giussano, ma moscio, perché a Roma lo spadone padano è moscio, c'è questo spadone che si affloscia nei manifesti. Di tutto possiamo essere accusati fuorché di non essere coerenti, e se oggi l'Italia sta per diventare un paese federale lo si deve allo spadone che da 20 anni la Lega mena a destra e a manca, e un ministro come Maroni. Io ricordo una trasmissione di 15 giorni fa su Radio 24 dove veniva accusato Maroni perché ci teniamo qua 25.000 tunisini. Faccio l'esempio di come, lavorando in silenzio in questi 15 giorni, 3.000 sono stati rimandati in aereo in Tunisia e 11.000 siano già passati in Francia, in Germania e in Belgio. Quindi capisco la difficoltà di Bersani, che ha perso la bandiera arcobaleno, perché non vedo molte bandiere arcobaleno, e oggi parla di missili come se stesse parlando di fiorellini. Però ripeto, fra i tanti difetti della Lega, quello di non essere coerenti da 20 anni a questa parte non ci può essere addebitato. Vedremo come andrà a finire questo braccio di ferro. Grazie intanto a Matteo Salvini. Grazie. Buona giornata, eurodeputato della Lega. Noi ci fermiamo per la pubblicità in meteo, poi parliamo, cari ascoltatori, di questo terribile fatto di cronaca, l'aggressione a due carabinieri, l'aggressione da parte di 4 ragazzini, uno maggiorenne da poco, 19 anni, gli altri 3 minorenne, stavano andando forse a un rave party, era un normale posto di blocco. Cosa è successo? Questa aggressione è davvero incredibile, anche immotivata, un'esplosione di violenza nei confronti di due carabinieri, che ha riproposto anche la polemica però sul tema dei rave party. Queste manifestazioni sono spesso illegali, per le quali qualcuno dice ci vogliono ora controlli più restrittivi, si sa dove avvengono, devono essere fermate preventivamente, i controlli più repressivi per i rave party. Partiremo prendendo spunto da questo episodio di cronaca. Siete d'accordo? Questo è il tema del nostro sondaggio su radio24.it. Votate oppure 800 24 0024. 24 mattino, 8:33, eccoci qua. Li hanno definiti quattro ragazzini vigliacchi, questo l'ha definito uno dei due carabinieri che è stato aggredito in provincia di Grosseto nei giorni scorsi da tre ragazzini per la verità, uno maggiorenne di 19 anni, un normale posto di blocco e uno, il maggiorenne, che risulta positivo al posto di blocco al test dell'alcol. Dobbiamo ritirarti la patente. Da qui si è scatenata questa furia aggressiva con uno dei due carabinieri che è ancora in questo momento in gravi condizioni, a rischio della vita. E si è riproposta la polemica perché vicino c'era un rave party, queste manifestazioni spesso illegali, spesso fatte così con un passaparola su internet, con la polemica, e c'è chi dice ci vogliono controlli più repressivi contro questi fenomeni. Che ne pensate? È il tema del nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Tutti un po' a scagliarsi contro questi fenomeni, rave party. Anche l'83% dei nostri ascoltatori dice sì, ci vorrebbero controlli più repressivi contro questo tipo di manifestazioni. Ne vogliamo parlare con intanto un senatore del Popolo della Libertà, è stato anche segretario di un sindacato di polizia al SAP, Filippo Saltamartini. Buongiorno senatore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Voglio salutare anche il procuratore capo di Pinerolo, Giuseppe Amato. Procuratore, eccoci, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno ai nostri ascoltatori. E voglio anche salutare Dino Lupelli, che è il direttore di un festival musicale, l'ITA, che è anche da vent'anni un organizzatore di eventi musicali. Dunque il mondo giovanile lo conosce molto bene. Lupelli, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Lupelli, vorrei partire subito da lei perché insomma, ecco, tutti a puntare il dito contro questi rave party, è la strada giusta? Ma a mio avviso i rave party sono una delle dimostrazioni del bisogno di aggregazione giovanile, del desiderio di aggregazione giovanile. È chiaro che ci sono delle degenerazioni anche nella lettura di quelli che sono questi fenomeni. Spesso si confondono quelli che sono fenomeni illegali con operazioni invece che sono magari anche di carattere culturale e sicuramente sociale. E diciamo, nel pastone che si fa nel giudizio, spesso e volentieri si arriva appunto a un'accusa indiscriminata nei confronti di chi organizza questi eventi, anche quando sono completamente legali, anche quando sono un momento, anche se vogliamo, di controllo, perché tenere insieme i giovani in un posto dove alla fine si possono verificare le condizioni e il loro stare insieme può essere l'unica forse alternativa reale di controllo quelli che sono i fenomeni dei rave illegali. Quindi un primo distinguo va fatto tra queste due situazioni. Quindi possono essere, diciamo, delle degenerazioni, ma l'idea di criminalizzare fenomeni di aggregazione non le sta bene, insomma, non le è piace. È un controsenso, è un modo per, come dire, impedire ai giovani di vivere anche la loro vita, se vogliamo, no? E di criminalizzare i giovani penso sia una delle tante azioni che si stanno compiendo in Italia, sbagliate, contro una generazione a cui spesso e volentieri viene impedito di pensare a un futuro, ma anche di vivere il proprio presente. Allora, senatore Saltamartini, io ho letto anche dichiarazioni per esempio del SAP, quindi le faccio fare questo intervento doppio da senatore, ma da uno che conosce molto bene anche il mondo del sindacato di polizia. Dire devono pagare adesso anche le famiglie, ci vuole una stretta contro queste manifestazioni. Le chiedo, ferma la condanna totale dell'episodio che è accaduto, non è che si rischia di fare un salto ulteriore, cioè spostando un po' il bersaglio da quello che è successo, c'è un terribile fatto di cronaca, senatore? Ma io credo che bisogna riportare la questione anche in un contesto, diciamo così, più generale, il diritto di riunirsi dei cittadini, cioè la repressione è limitata da un quadro costituzionale che permette appunto e garantisce ai cittadini di riunirsi. Io credo che dobbiamo guardare un po' più in là, al disagio giovanile e al problema appunto dell'educazione dei nostri figli da parte delle famiglie. Io lo dico anche da sindaco, ormai si è diffusa l'idea che i nostri ragazzi, i nostri figli debbano essere educati dagli altri, dall'oratorio, dagli insegnanti o non so da chi. E il disagio giovanile, questo nichilismo che peraltro si manifesta anche con l'aumento dei suicidi, con l'aumento dell'uso non solo degli stupefacenti, ma da questo fenomeno preoccupantissimo che è l'uso dell'alcol, questi aperitivi, la discoteca che prosegue dopo la chiusura ordinaria alle 3 di notte con riunioni in giro per appunto scantinati, locali vari. Io credo che noi dobbiamo riportare appunto il controllo sociale delle famiglie e dei responsabili sui nostri ragazzi e sui nostri figli, questo è il quadro centrale. Poi il problema della responsabilità. Ormai, voglio dire, anche a scuola se succede qualche cosa i genitori criminalizzano subito gli insegnanti, non c'è più l'idea dell'autorità. E soprattutto a mio giudizio non c'è neppure l'idea sociale, che è un principio costituzionale, del dovere di solidarietà. Questo in questo caso però mi ha molto colpito, non è molto successo in questo caso, per esempio il padre dell'unico maggiorenne ha detto, a me ha molto colpito queste dichiarazioni, non lo voglio neanche vedere, se ha fatto quello che ha fatto e quello che leggo sui giornali è uno sciagurato, gli eroi sono i carabinieri che lavorano in strada come lavoro io, lui è uno spurgatore di tombini e io prima di andare da mio figlio a guardarlo in faccia voglio andare dalle famiglie dei carabinieri semmai a chiedere perdona, a chiedere scusa. Quindi in questo Saltamartini forse certo probabilmente però questo è il risvolto della medaglia. Ci dovremmo chiedere se un genitore ha un figlio in queste condizioni come poterlo aiutare. Voglio dire, è chiaro che la solidarietà va a quei carabinieri, a quei due ragazzi che sono stati, diciamo così, picchiati, però noi dobbiamo sempre assumerci la responsabilità di questi fatti, sia come genitori ma anche come cittadini. Non possiamo immaginare di abbandonare una generazione con i problemi attuali al loro destino. Ecco, il problema, ripeto, dei suicidi, dell'alcol, della conflittualità a scuola, dell'evasione scolastica, sono problemi che riguardano il legislatore, il governo, i sindaci, ma principalmente riguarda la società nella sua gestione appunto anche delle relazioni affettive. Io vorrei, procuratore Amato, ci aiuti a capire qualcosa dal punto di vista del diritto della legge, perché spesso si dice, ma scusate, se sono illegali, di cosa stiamo parlando? Sono illegali questi rave party, quindi che cosa volete fare di più restrittivo? Una cosa, se è illegale, già viola la legge. È davvero una domanda quindi sbagliata, oppure ci si pone una questione dal punto di vista del codice penale, del diritto, di cosa fare di fronte a questo tipo di manifestazioni, laddove sono ovviamente non legali? Già oggi il nostro ordinamento ci consente di inquadrare anche illegalmente manifestazioni di questo tipo. Nessuno vuole ovviamente interdire la libertà dei giovani di aggregarsi, ma la libertà deve coniugarsi con il rispetto degli altri, con la sicurezza pubblica, con il rispetto dell'ordine pubblico. Ora, manifestazioni di questo tipo, questi rave party che sono espressamente qualificati e organizzati con quel tipo di musica, con quella intensità di musica, esclusivamente se non principalmente alla assunzione durante questi incontri di sostanze stupefacenti e di sostanze alcoliche, già oggi sono puniti e punibili attraverso la normativa sulle sostanze stupefacenti, a partire da una norma che è stata applicata purtroppo poche volte, che punisce gli organizzatori per il reato di agevolazione all'uso di sostanze stupefacenti. Ma si può addirittura intervenire o prima? Perché molto spesso ci deve intervenire prima. Io, diciamo, nelle mie attività di procuratore della Repubblica di Pinerolo ho pensato ad un intervento preventivo, perché un intervento successivo è solo repressivo ed è estremamente difficile, perché il congresso di numerosissime persone impedisce poi alle forze dell'ordine di poter efficacemente controllarle ed evitare i rischi che poi, diciamo, sono empiricamente evidenti. Quindi bisogna preventivamente, attraverso per esempio un monitoraggio sui siti web dove vengono più o meno clandestinamente pubblicizzati questi rave party, intercettare queste notizie e operare, e lo abbiamo fatto a Pinerolo con le forze dell'ordine, con il sindaco, e intervenire in modo da vietare in modo da, noi abbiamo intercluso per esempio il luogo dove l'anno precedente al mio arrivo a Pinerolo si era organizzato con enorme fastidio per la collettività questo rave party, dove si poteva ragionevolmente pensare che questo rave party venisse nuovamente organizzato, proprio fisicamente, grazie ai militari della Nizza Cavalleria, per esempio questo terreno è stato, diciamo, intercluso, impedendo l'accesso a questo numero. Quindi, quindi insomma si può fare. Io, prima delle informazioni sul traffico, Dino Lupelli, qua devo riversare qualche critica, insomma, che sono venute sia dai nostri ospiti, ma sia anche i nostri ascoltatori che ci scrivono al 349-238-6666, alla quale vorrei che lei rispondesse, perché dicono, ma insomma, non siate ipocriti, si va a queste manifestazioni per ubriacarsi e per drogarsi, questo dal punto di vista dei giovani, questa è la più gentile che arriva come messaggio. E poi insomma anche il procuratore Amato ci ha detto, spesso i ragazzi che vanno a quel tipo di manifestazioni sono dediti a questo tipo di attività. Ma queste due letture sono esattamente quello che diciamo i giovani si sentono dire costantemente. È semplicemente la dimostrazione di come non si capiscono, come dire, i fenomeni giovanili. Io non sto negando che ci siano determinati usi di sostanze o un abuso di alcol, come viene detto in questa trasmissione, perché è la verità. Io sto dicendo semplicemente che la difficoltà da parte dei giovani anche a fruire di attività che possono essere aggregative e legali porta loro a auto-organizzarsi in questi termini e quindi ad avere non soltanto quella che è un'abitudine o se vogliamo una consuetudine all'abuso di alcol o sostanze, ma anche in più ad aggiungere il rischio di fare tutto questo in spazi e luoghi dove è impossibile effettuare un controllo e dove spesso si confonde il ruolo degli organizzatori, come magari nel mio caso professionali, con quelli di chi si improvvisa, ma perché non esistono alternative. In Italia, veda, c'è una delle legislazioni più repressive per quello che riguarda il pubblico spettacolo e per quello che riguarda le autorizzazioni locali. Io giro spessissimo per mio lavoro, per verificare quelli che sono altre attività fatte all'estero, festival a livello internazionale, Germania, Francia, Inghilterra, sì. Olanda, hanno una legislazione talmente meno repressiva che esistono molti più locali e molti più luoghi dove si può cioè lei dice la mancanza di luoghi e possibilità che porta poi i giovani a trasgredire organizzando queste cose illegali. Ma è una delle motivazioni. È chiaro che io non sarò mica qui a difendere chi fa queste attività esatto. Dal mio punto di vista, una delle motivazioni per cui questi fenomeni ci sono, a quello dei rave si può aggiungere il fenomeno degli after party, quelli sì. illegali notturni, ci sono perché a un certo punto si è stabilito in Italia che i locali dovessero avere una serie di caratteristiche che spesso impediscono e rendono antieconomico anche aprire un locale, che ci dovessero essere i coprifuoco, che ci dovessero essere tutta una serie di limitazioni alle attività svolte da cioè professionalmente. Allora dice c'è una controreazione. Allora andiamo a sentire le informazioni sul traffico, poi ripartiamo anche qualche ascoltatore all'800240024. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Per l'84% dei nostri ascoltatori ci vorrebbero sì controlli più restrittivi nei confronti di questi rave party, queste manifestazioni. Voglio sentire Alex dalla provincia di Vicenza, ci ha chiamato, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Alex. Io sono un po' una persona strana perché sono un americano qua in Italia. Non è molto strana questa cosa. Strano, però diciamo che per il discorso è quello che dica. Particolarmente è che it's misdirected, si dice in inglese, che vi state indirizzando nella direzione sbagliata. Qua il discorso è, questi poliziotti sono stati picchiati, rave party o meno, i poliziotti dovevano poter usare la forza letale per proteggersi. Ma sono stati aggrediti alle spalle mentre scrivevano il verbale, immagino, sul cofano della macchina. In realtà diciamo che i dettagli di questo discorso sono anche da discutere, però la cosa più fondamentale qua in Italia, io quando parlo con carabinieri e altre forze dell'ordine italiani, sono che loro non si sentono neanche protetti in situazioni di questo tipo. Cambiamo il discorso, diciamo che questi poliziotti in questo abbiano sparato i due o tre o quattro, sì, quelli che erano ragazzi. Di che cosa potevamo parlare in questo momento. Questo, guardi che Alex, lei pone una questione molto molto interessante che è sviluppata dai giornali. Ieri leggevo su un giornale una statistica degli amici della polizia della strada. Ogni giorno ci sono in media 6 aggressioni alle forze dell'ordine in situazioni simili a queste, situazioni di controlli, posti di blocco, normali controlli, insomma. Filippo Saltamartini, è così? Cioè le forze dell'ordine non si sentono tutelate? Leggevo interviste anche di poliziotti che sotto anonimato hanno detto: sapete che c'è, che a volte li facciamo andare perché arrivano in 4 o 5 al ticci e poi fate voi un controllo in quella situazione, se poi ci aggrediscono, se poi ci, succedono anche queste cose, Saltamartini? È assolutamente così, c'è un disagio da parte delle forze di polizia per tutta una serie di comportamenti. Adesso è difficile spiegare in Italia come una denuncia anche calunniosa possa portare un agente di polizia, un carabiniere, a un procedimento penale che dura anni e quindi ha tutta una serie di conseguenze, poi anche se il procedimento penale si conclude con una soluzione. Adesso non vorrei ritornare sull'antica questione della durata dei processi, sì, dei procedimenti e della giustizia, però vorrei sottolineare come quando 2 anni fa l'attuale maggioranza ha reintrodotto al nostro ordinamento il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, perché questo è anche il limite, no, di garanzia nel rispetto della funzione di questi operatori, come sia stata fortemente criticata e come esistono dei pezzi della magistratura che tendono, diciamo così, anche a considerare questo reato un reato, diciamo così. Quindi c'è un senso di scarsa tutela delle forze dell'ordine nel momento in cui sono lì a operare sulla strada, le dice. Si sente dietro un sostegno. Alex ci ha posto un problema molto chiaro, glielo chiedo direttamente, Saltamartini, cioè se fossero stati i carabinieri a sparare perché aggrediti, di cosa staremmo parlando oggi? Staremmo parlando di omicidio volontario e poi nel corso di un processo dover dimostrare semmai la difesa legittima, però l'uso delle armi deve essere sempre l'estrema razza. La realtà è quello che le dicevo prima, io l'ho vissuta per anni. Purtroppo oggi nel nostro paese le forze di polizia sono esposte come tutti gli altri a un procedimento penale a seguito semplicemente di una lesione, mettiamo che a seguito di una colluttazione questi ragazzi sono ricoverati al pronto soccorso, per un referto di lesioni si va sotto processo. Vediamo, allora mi scusi perché c'è il procuratore capo di Pinerolo, insomma, che codice alla mano ci potrà dire se è vero. Procuratore, io ho letto qualche intervista allarmata ieri di qualche poliziotto che dice: li facciamo passare perché poi facciamo appunto un controllo, un fermo di polizia un pochino più energico perché la situazione magari lo richiede, ci ritroviamo accusati col giudice di turno che ci mette sotto processo. Procuratore. Io le dico la verità, la mia esperienza è un'esperienza diciamo dei colleghi, io non vedo francamente questo atteggiamento, come dire, vessatorio tra virgolette nei confronti degli operatori delle forze dell'ordine, che sono dalla parte della magistratura e la magistratura è dalla stessa parte delle forze dell'ordine, perché siamo tutti dei servitori dello Stato. Quindi io francamente vedere, come dire, questa sorta di insicurezza nell'approccio della magistratura nei confronti dell'agire delle forze dell'ordine non lo vedo. C'è, lo ricordava il senatore, l'uso legittimo delle armi, che è una causa di giustificazione che consente, nei limiti della proporzione ovviamente tra la aggressione subita e la reazione, anche l'uso estremo delle armi. Io non ho ricordi di procedimenti ingiustificatamente aperti nei confronti di operatori delle forze dell'ordine che possono avere fatto uso delle armi. Ci sono come al solito dei casi estremi, ma i casi estremi, come dire, non sono facilmente decrittabili, nell'altro e ritengo doveroso che ci sia una verifica e un controllo. Vorrei sentire che cosa ne pensa ancora Andrea da Vicenza, anche lui ci ha chiamato. Andrea, buongiorno. Buongiorno a lei, Dica. Guardi, io voglio salutare innanzitutto tutti gli ospiti e ringraziare Alex, che è un cittadino americano e mi ha tolto le parole di bocca. E voglio ringraziarlo perché è uno straniero che sente così particolarmente i nostri problemi, è da ammirare. Allora, vorrei contraddire una cosina solo. Allora, io sono un poliziotto, sono ispettore capo da 30 anni in polizia con 27 anni di volante. Ebbene, l'estrema razio dell'arma è giusto che non ci debba essere, perché la vita umana va tutelata in tutti, quella era la nostra e anche quelli di Terzi, ma una polizia vecchia, dove non ha strumenti adeguati, con una pistola elettrica, con un semplicemente spray urticante. Per poter avere uno spray urticante bisogna modificare l'ordinamento, bisogna e ci sono burocrazie su burocrazie. Noi abbiamo una calibro 9 da guerra, parabellum, quando in città non ci serve assolutamente nulla, perché noi uccidiamo con quella pistola. Noi dobbiamo avere dei mezzi di difesa adeguati ai tempi di oggi, perché noi oggi come oggi siamo soggetti a pestaggi. Quindi lei conferma insomma che la situazione, quando poi si opera sul campo e ci si trova in situazioni, non sempre ma spesso, di situazioni di aggressioni, cioè di persone aggressive nel momento in cui vengono fermate? Che, allora, riguardo, io ho 48 anni, adesso sono la polvere. Ho fatto servizio attivo in volante per 27 su 30, sì. Ma io non vado in palestra tutti i giorni, non ho il fisico di un ventenne, non mi faccio di acidi, non mi faccio di cocaina, perciò quando mi rapporto con queste persone che sono alterate da cocaina, da acidi, LSD o estasi e alcol, la loro forza si centuplica. Sì, sì, lei... Io non sono in grado di poter contrastare una belva, perché diventano belve. Con cinque persone a fermare una persona che ci ha menato tutti e cinque. Adesso noi dobbiamo capire perché lo Stato, perché il Ministro degli Interni, perché la politica non ci adotta di sistemi idonei di difesa. Noi dobbiamo andare sui treni con manganelli lunghi 60 centimetri che non possiamo neanche utilizzare, perché non possiamo adottare un tonfa, un manganello estraibile, perché c'è il... tutto un giro di, bisogna rifare di burocrazia, l'ordinamento. No, ma guardi, Andrea, sono tanti. È uno schifo, posso dire una cosa? Sì, è uno schifo. Io l'ho fatta parlare con lei, voglio concludere, perché insomma, anche il suo sfogo, il suo appello anche alla politica, è un appello interessante. E mi devo fermare, il tempo è finito. Ringraziando il senatore Filippo Saltamartini, il procuratore capo di Pinerolo Giuseppe Amato e Dino Lupelli, che ripeto, organizza eventi musicali, eventi di aggregazione giovanile da 20 anni. Grazie per essere stati con noi. La nostra pagina Facebook 24 mattino, lì continua la nostra discussione, potete andare come sempre e discutere tra di voi con la solita pacatezza. Ringrazio Filippo Aureggi in regia e ringrazio là dietro Alessandro Longoni in redazione con Elisabetta Fusconi. Che dire, do la linea a Oscar Giannino come di consueto e noi ci ritroviamo domani alle 7:20.